Bel è prostrato, Nebo si è rovesciato. I loro idoli sono dati agli animali e ai giumenti. I loro carichi sono trasportati come peso spossante. Sono rovesciati, sono prostrati insieme. Non possono salvare quelli che li portano, andando essi stessi in schiavitù. Ascoltatemi, casa di Giacobbe, e tutto il resto della casa di Israele, voi, portati da me sin dalla nascita, di cui mi sono incaricato sin dal seno materno. Fino alla vecchiaia io sarò lo stesso. Fino alla canizie io vi porterò. Io l'ho fatto. Io me ne caricherò ancora. Io vi porterò e vi salverò. A chi mi potete paragonare ed assimilare? Con chi mi potete confrontare? Quasi fossimo simili. Traggono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia. Pagano l'orafo perché fabbrichi un dio, poi lo venerano e lo adorano. Se lo caricano sulle spalle e lo portano, poi lo depongono sulla base e rimane diritto. Dal posto suo non si muove, lo si invoca ma non risponde, non libera nessuno dalla tribolazione. Ricordate ciò e siate confusi, o prevaricatori, considerate nel vostro cuore. Ricordate le cose passate da lungo tempo, poiché io sono Dio e non vi è altri. Sono Dio e niente è come me. Dall'inizio ho annunciato l'avvenire, dall'antico ciò che non è ancora compiuto. Dico, il mio progetto permane, farò tutto ciò che mi piace. Chiamo dall'Oriente l'uccello rapace, da terra lontana l'uomo del mio disegno. Come ho parlato, così lo compirò. Ho formato il disegno, lo realizzerò. Ascoltatemi, ostinati di cuore, voi che siete lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Porrò in Sion la salvezza, ad Israele darò la mia gloria.